Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Recoaro Terme, novembre 1943. L'esecuzione di Emma Sandri nel diario di un partigiano. Era appena uscito dalla piscina comunale con i capelli umidi all'ora di cena di lunedì 20 marzo. Mancava poco all'appuntamento con Danilo Parise. Un'insegna luminosa invitava a conoscere il cinema Edison. Mentre si spegnevano le luci, sullo schermo apparvero filmati in bianco e nero sulla Seconda Guerra, commentati da una rapida voce metallica, segno della comicità di anni tragici. Il cappello della signorina intralciava la visuale. Nella sala piena si annusava l'odore di carne umana surriscaldata dai cappotti e dai maglioni di lana. La storia di questa sera, lesse nei titoli in italiano mentre il tedesco parlava con un sigaro fumante tra i polpastrelli tozzi, ci porta in una casa nel centro di un paese di montagna. È un racconto che nasce da un resoconto nascosto in una storia trovata in un diario che sussurra un segreto a chi lo sa capire. Protetto dall'oscurità, ma impregnato dal disagio, non riusciva a vedere bene lo schermo nascosto dal cappello della signorina. La signora accanto a lui borbottò: «Insomma, silenzio, per favore!» L'uomo grasso nel cappotto grigio, sì, era Danilo Parise, voltandosi a fatica sbatté lo stinco sul sedile di fronte. La donna con il cappello disse, rivolgendosi a Parise: «Goffredo!» «Minò», rispose lui. Volsero di nuovo i visi illuminati verso lo schermo, dove si vedeva la cucina di una villetta in un paese che, come si rese subito conto, era Recoaro Terme. Chiuse gli occhi e ascoltò la voce proseguire nel racconto. Questa è Emma Sandri. Due settimane fa, suo marito è tornato a vivere con lei dopo 10 anni di inspiegabile assenza. Quando anche amici e parenti lo davano ormai per morto, disse il narratore, a Emma Sandri restò sempre un dubbio su quella scomparsa e continuò ad aspettarlo fino al giorno in cui suo marito, in effetti, salì di nuovo le scalette della villa. E Emma Sandri vide il suo sorriso attraverso una fessura, quasi identico a quello di 10 anni prima. Emma non saprà mai che in quei 10 anni il marito si era risposato e aveva avuto 2 figli biondi con cui parlava solo in tedesco. Non riuscirà mai a saperlo perché Emma verrà fucilata da un plotone d'esecuzione composto da un unico partigiano che forse non sapeva che la giustiziata era incinta al 4° mese, cioè da prima che il marito tornasse a casa. L'accusa a Emma Sandri era di tradimento. Pochi giorni prima, infatti, grazie a un informatore, erano stati arrestati e deportati a Mauthausen 3 partigiani del battaglione del comandante, il cui nome di battaglia era Carlo. Sullo schermo vide ora Emma Sandri con i capelli tagliati corti, come si faceva con le collaboratrici naziste. Le spiegazioni di Emma Sandri, continuò la voce del narratore, non importavano molto al comandante del battaglione autonomo Valdagno, Leone Zulpo, detto comandante Carlo, alpinista e guida nonché farmacista. Agli occhi degli abitanti di Valdagno e di Recoaro, Leone Zulpo era quindi l'esempio di qualche cosa di nobile, pulito, misterioso e sacro, che forse era anche in essi stessi. Ricordarlo dopo tanti anni serviva a riaccendere quella luce tra chi gli era sopravvissuti. Emma Sandri non era fra questi, avendo dovuto ammettere di essere la moglie del cruco che era scomparso per 10 anni e che si era messo a fare troppe domande ed era stato visto parlare con le SS. Il battaglione aveva deciso di mettere fine allo scambio di informazioni con i nazisti, disse il commentatore e poi tacque. Le immagini scorrevano sullo schermo del cinema Edison. Sono in 5 attorno a lei, ora. La trascinano per le caviglie in mezzo alla stanza. Roberto le tira dei calci sulle anche, le strappano i vestiti, cercano di metterla seduta, ricade. Emma ha i capelli bagnati, Roberto accende una sigaretta e le si avvicina urlando, disse il narratore. Emma aveva lo sguardo fisso. «Parchemi», disse, poi chiuse gli occhi e vomitò sangue sui suoi stessi capelli. «Ma è il processo?», chiese un altro. «No, che se tempo». 2 spari, chiusero la frase. Alcuni mesi dopo, disse il narratore, nel quaderno di ruolino il comandante Carlo avrebbe scritto: «Fu anche prelevata una donna, certa Sandri Emma, presunta spia, che in circostanze difficili a causa di rastrellamenti, gli elementi che la custodivano si videro costretti a sopprimere prima che il tribunale del battaglione avesse deliberato la sentenza. Il bilancio di questi mesi è di 167 prigionieri, 3 fascisti morti e 4 partigiani morti, firmato comandante Carlo». Non poté più resistere in quel cinema con quella storia assurda. Si alzò, disturbando l'intera fila che continuò a lamentarsi fino a quando ebbe raggiunto l'uscita e arrivò a respirare l'aria fredda della via Lelia. Carlo Pizzati, dal 12 maggio in libreria con Il passo che cerchi, Edelweiss Edizioni, 65 pagine, 25 euro.